America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Don't be rude. No, I'm not going to give you a question. I'm not going to give you a question. Can you stay categorical? You are fake news. Fake news, fake news. Ecco, Donald Trump si è scatenato di nuovo in un attacco contro i media. Perché? Beh, lo spunto gliel'ha dato la CNN, che ieri ha preso atto del fatto che il suo sito internet ha pubblicato con leggerezza una notizia, una storia che attaccava un funzionario vicino a Trump, Anthony Scaramucci, vicino alla sua campagna elettorale, dicendo che era legato a un fondo di investimento russo. Qual è il problema? Che c'era soltanto una fonte, questa fonte era anonima, e questa prassi è fuori dalla prassi giornalistica seguita dalla CNN, cioè dal rigore seguito dalla CNN. E dunque la CNN, che è molto sotto attacco da parte di Donald Trump, ha deciso di licenziare i tre giornalisti responsabili: Thomas Frank, l'autore del pezzo, Eric Klickblau, l'editor, diciamo il responsabile del pezzo, e Lex Harris, il capo redattore. Un segnale forte di cui Trump naturalmente ha approfittato. Ma a quel punto ieri è partito in quarta e ha twittato un po' su tutto, intanto su CNN, dice: ma cosa dire di NBC, CBS, ABC? Tutti mi attaccano e tutti fanno fake news. Cosa dire del fallimento New York Times, cosa dire di Amazon, Washington Post, è attaccato Jeff Bezos. Ecco, qui c'è un problema di fondo e io qui voglio dirvi ad America 24 che dobbiamo finirla con le fake news e voglio fare un pronostico. Il pronostico è che da oggi è già partito un movimento per chiuderla con le fake news, per recuperare la sicurezza di notizie vere, tra virgolette, di notizie affidabili. E perché questo accada, non è che me lo invento io, l'ho sentito qua a New York parlando per esempio anche con l'editor di Bloomberg John Mikkelsen, ma con altri giornalisti o editori americani, beh, è l'assoluta applicazione della barriera all'ingresso, cioè del paywall, e cioè se volete le notizie dovete pagarle, perché sono notizie di qualità che costano e il semplice fatto che le paghiate le rende di qualità. Questo secondo me è lo sviluppo in cui ci stiamo avviando e questa potrebbe essere la soluzione per evitare questa continua provocazione sulle fake news. Il problema naturalmente resta, lo stesso Trump si rende colpevole di fake news. Perché? Ma perché il Washington Post, per questo era così infuriato contro Jeff Bezos, Washington Post cosa ha fatto? Ha pubblicato un articolo in cui ha scoperto che nei suoi campi da golf Donald Trump aveva esposto una copertina di Time in cui appariva col suo faccione, con la sua capigliatura variopinta, con un titolo straordinario, non so, uomo dell'anno, uomo del mese. Cioè, ecco, quella copertina era fake, era falsa, non esiste negli archivi di Time. Dunque anche il presidente si rende colpevole di fake news. Del resto questo lo sappiamo, perché durante la campagna elettorale ne ha sparate anche lui di grosse. E allora, parlando di fake news, di media tradizionali in difficoltà, di nuovi orizzonti, o come ai microfoni di America 24, Vittorio Meloni, direttore delle relazioni esterne di Banca Intesa San Paolo, che è un collega, perché è un giornalista pubblicista, e ha scritto un libro, Il crepuscolo dei media, un libro molto interessante, tra l'altro, in cui si analizza come i media tradizionali abbiano imboccato la strada del declino. Editore La Terza. Meloni è a New York e in America per fare un giro d'orizzonti sul futuro, cioè sui social media, su quello che viene dopo. Buongiorno Vittorio. Buongiorno Mario. Allora Vittorio, tu sei qui in America per esplorare anche un po' il futuro, ma condividi il fatto che bisogna smetterla con queste fake news e che una soluzione potrebbe essere quella di imporre abbonamenti per la ricerca di qualità? Sì, sicuramente quella delle fake news è un tema, diciamo, che va affrontato di petto, deve uscire, diciamo così, da un dibattito superficiale, alle volte leggero, sull'inevitabilità della propagazione di notizie false, inventate o manipolate, diventare un tema importante per tutto il mondo dell'informazione. Sono meno ottimista sulla possibilità che si possa contrastare con i mezzi che tu indicavi nella tua presentazione, cioè attraverso barriere a pagamento che permettano di selezionare l'accesso alle notizie, diciamo, verificate, professionalmente costruite e distribuite. Vittorio, bisogna introdurre questa professionalità. Sì, è vero, ed è una esigenza che sta diventando sempre più forte nel pubblico di persone avvertite che, pur avendo magari perso in parte l'abitudine della lettura abituale di un quotidiano o dell'ascolto di una radio di informazione, sente la necessità di ricevere informazioni sensate e credibili. Però non c'è dubbio che nel frattempo questi 20 anni che abbiamo alle spalle, che hanno accompagnato la crisi dei media tradizionali, abbiano abituato la gente a non pagare l'informazione che veniva resa disponibile gratuitamente, ed era l'informazione dei grandi giornali e delle grandi reti televisive e radiofoniche che oggi vanno incontro a questa difficoltà globale. Qual è il futuro del giornalismo, dell'informazione, dell'agorà nella quale ci si deve confrontare? Non ci sono delle risposte pronte, c'è una crescente sensibilità in particolare al tema dell'attendibilità dell'informazione, ma anche consapevolezza che il modello di business nato con l'editoria moderna è in crisi profonda, perché non c'è solo un tema di attendibilità dell'informazione, di sua distribuzione, ma anche di sostenibilità, perché economica, perché ad esempio vengono meno i ricavi commerciali, i ricavi degli investitori pubblicitari. Questo mette in discussione il modello di business così come noi l'abbiamo conosciuto. Per un inserzionista, perché Banca Intesa fa inserzioni pubblicitarie e dunque tu ti devi occupare anche di quello, a che cosa guardi oggi per determinare su quale mezzo si investono i soldi per la pubblicità? Ma si investe ancora una buona parte dei budget disponibili sui grandi media tradizionali, e che per esempio in Italia i media tradizionali sono ancora il punto di riferimento per buona parte del mercato, ma non c'è dubbio che la loro presa è diminuita e quindi si cercano strade alternative, soprattutto attraverso piattaforme digitali, l'offerta online e la nuova realtà dei social, che sta diventando sempre di più il nuovo baricentro della comunicazione nel suo insieme. Ecco Vittorio, ultima cosa, scusami, però Robert Thompson, che è il numero uno del gruppo Murdoch per tutti i giornali, tutti i media, tutta diciamo quella che è l'ex carta stampata, siti internet eccetera, ha detto che Google e Facebook, che sono i social media per eccellenza, sono anche loro fake. Perché? Perché alla fine la pubblicità che si fa sui loro siti forse non è così attendibile come loro sostengono essere. Cosa ne dici? Sì, in effetti c'è un problema di visibilità e di trasparenza degli investimenti in comunicazione sui grandi over the top e sui social media, perché alcuni di loro non danno accesso ai loro dati e quindi diciamo la ricaduta dell'investimento non è certa. Però non c'è dubbio che siano diventati molto potenti ed oggi potenti a tal punto da raccogliere buona parte degli investimenti pubblicitari. Però non c'è dubbio che questo avviene anche attraverso l'utilizzo di informazioni che non sono loro a produrre, ma sono i grandi media tradizionali. Quindi se c'è un futuro per loro nella trasformazione digitale, quella di dare sempre di più e sempre meglio informazioni di qualità, attendibile, verificabile, professionale. Questo è anche ciò che serve a società complesse e libere come sono le nostre. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno, Vittorio Meloni, sempre con noi ai microfoni di America 24. Vittorio, cosa ci inventiamo, cosa vogliamo proporre ai nostri ascoltatori? Ma chiaramente pensando al tema che abbiamo trattato, un po' quello di avere diciamo un nuovo scenario, un nuovo orizzonte, un nuovo cielo, mi viene in mente questo bel pezzo di Jeff Hoop, The Lost Sky, che anche se parla diciamo di una promessa sentimentale tradita, fa pensare per l'appunto a un mondo che ha bisogno di un nuovo cielo verso il quale spingere lo sguardo. Jessica Hooker, The Lost Sky. I walk the dark star, the lost sky, searching for your signal. Receive mine, I caught you cold in our tears, we can laughter, happy ever after. Out of our secrets, we built a home, confined and fortified. Blood born, a love like ours comes round once in a lifetime, sending you a lifeline. The bitter burn of a sun. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.